In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Buonasera, buonasera e tanti cari auguri da tutti noi di Rock Revolution. Bene, ce l'abbiamo fatta, insomma, nonostante le previsioni catastrofiche dei Maya, per fortuna abbiamo superato questo tanto agoniato 2012 e siamo nel 2013. Ragazzi, Odissea nello spazio, cos'è? 2011, 2010, insomma. Abbiamo superato anche quello, per fortuna continuiamo a trasmettere su CRMP Radio anche questo venerdì rigorosamente in diretta, come ogni buon venerdì che si rispetti, con l'appuntamento dedicato al rock e agli artisti emergenti, ovvero Rock Revolution. Anche questa sera, insomma, davvero tantissimo materiale, non mancheranno ovviamente le rubriche, i collegamenti, le interviste, il Rock for You, i 4 successi rock più belli di tutti i tempi in sequenza mixata. Vi do un'anticipazione: questa sera ascolteremo 4 classici veramente con la C maiuscola. Ascolteremo i Black Sabbath, gli AC/DC, Deep Purple e Led Zeppelin. Pensate un po' che bel Rock for You questa settimana. Poi new release di questa settimana, anche quest'oggi andremo a scoprire una nuova canzone, un nuovo release per l'appunto. Non vi anticipo nulla. Poi l'Italians Do Rock Better, i 2 successi italiani rock in sequenza mixata questa settimana, Ligabue e Litfiba. I Love Rock and Roll, lo spazio ai grandi classici del rock, con 2 canzoni di un unico autore. Questa settimana abbiamo deciso, insomma, di celebrare il grandissimo Chuck Berry, quindi 2 canzoni, Brown Eyed Amazon Man e Route 66, visto che ultimamente, insomma, molte persone, soprattutto giovani sposini, decidono di andare in vacanza per la luna di miele nella Route 66, che è un posto meraviglioso che consigliamo assolutamente anche a voi. Poi 2 brani in sequenza, Bob Dylan, i Free questa settimana, un gruppo che non ha fatto parlare moltissimo, però è veramente da prendere in seria considerazione. Poi, insomma, ovviamente tutte quante le varie rubriche con il nostro amico Francis e Pablo, i nostri amici Francis e Pablo, per parlare delle curiosità più strane dal mondo di internet intorno alle 23:30, sempre perché ci sono delle cose un po' piccanti di cui parlare. Collegamento con Palermo, con il nostro corrispondente giornalista Francesco Quartararo, per conoscere quelli che sono gli eventi, i concerti, le cose più interessanti per poter passare un bel fine settimana a Palermo e provincia. E poi ovviamente intervisteremo 2 band. La prima sono i Ninos do Brasil, dalla città in questo momento non mi è pervenuta, però lo scopriremo più avanti. E invece da Palermo un musicista molto interessante, faceva parte di una band che abbiamo avuto ospite qualche anno fa, erano i Marcelle Qualsiasi, ha scelto, insomma, di continuare la propria carriera musicale da solista, e quindi avremo il piacere di riavere con noi Francesco Vannini per parlare di questo suo nuovo progetto musicale molto interessante. Questo è tutto quello che farete questa sera e faremo questa sera Rock Revolution. Ovviamente saluto il mio compagno, i miei compagni di viaggio, Simone Brancato. Buonasera, Simone. Ciao Filippo, auguri a tutti gli ascoltatori di CRM di Rock Revolution. Come andate? Quanti chili sei ingrassato in questa settimana? Troppi chili. Effettivamente uno dice: guarda, da domani non mangio più, appena passano le vacanze prometto di mettermi a dieta, però poi, insomma, rimangono sempre le cosine da mangiare dopo i festoni, le cose, e uno continua a mangiare. Poi bisogna prepararsi, insomma, per l'estate, no Simone, che andiamo in spiaggia. Assolutamente. Dobbiamo fare la nostra porca figura poi con le nostre fan. Saluto anche Ida Parlavecchio, la nostra redazione, anche lei pronta all'attacco. Fra un po' parleremo di tutti quanti i vari modi per mettervi in collegamento con noi, ma iniziamo con i Guano Apes e la loro Big in Japan. Glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. You're big in Japan. You're in Japan, stiamo parlando degli anni 2000, esattamente proprio il 2000, anche se in realtà questa canzone è una cover degli Alphaville, un gruppo insomma degli anni 80. Stavamo leggendo alcune curiosità riguardanti proprio i Guano Apes, che nel 2009 annunciano il loro ritorno sui palchi di diversi importanti festival estivi. Poi nel 2011 hanno pubblicato un nuovo album in tre diverse edizioni, tra l'altro anche un vinile, cosa che ormai insomma è abbastanza rara. Ci giunge notizia che appunto in questi festival hanno suonato un paio di pezzi di questo nuovo album, e sembra insomma che sia stato un prodotto che non ha avuto poi in realtà il successo che si pensava. Comunque nel 2011 la band poi si è impegnata in un tour europeo dove sono stati presentati brani contenuti in Bel Air, ma anche i vecchi successi. Invece il tour ha riscosso un grande successo dal vivo, sicuramente le canzoni sono state più gradite. Altra canzone in arrivo questa sera, parliamo degli U2, giustamente parliamo di New Year's Day, il giorno del nuovo anno. È un brano della rock band irlandese U2, estratto come primo singolo dall'album War del lontano 1983. La canzone è guidata dal distintivo basso di Adam Clayton e dalla tastiera di The Edge. Si tratta del primo vero successo del gruppo, riuscendo ad entrare nella top 10 britannica e nella prestigiosa Billboard Hot 100 per la prima volta nell'intera carriera del gruppo. Tra l'altro, originariamente il brano doveva essere una canzone d'amore dedicata da Bono alla moglie. Pensate un po'. Allora, vediamo subito i vari riferimenti per interagire con Rock Revolution, anche se sono sicuro ormai li conoscete abbastanza bene. Allora, nel sito internet della nostra radio crmhappyradio.it, il sito del nostro programma www.rockrevolution.it, Poi potete inviarci degli sms al 335 56 37 251 oppure semplicemente potete lasciare dei post sulle nostre community Facebook e Twitter, sia di CRMP Radio sia di Rock Revolution, cercando Rock Revolution Redazione o CRMP Radio appunto su Facebook, dove tra l'altro è possibile anche seguirci in streaming audio e video, quindi seguire l'intera puntata e assistere in modo virtuale all'intervista della band di questa sera, che avremo insomma fra circa un'oretta. Arrivano i Jane's Addiction, parleremo subito dopo di una curiosità che io ovviamente conoscevo, però voi no. Parleremo di John Frusciante, voi dite ma che c'entra? Fra poco ve lo dico. We didn't know that it would blow up with such might. The stars are even brighter, they're just about the night. Sent out the shockwave. Forse non sapevate che James Addiction sono un gruppo musicale alternative rock statunitense formatosi a Los Angeles nel lontano 1985. Cosa che forse non sapevate è che in un'intervista del 1999 John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers, cantante, ha rivelato che James Addiction gli chiesero di sostituire Dave Navarro, ex cantante, cioè no, credo ex cantante proprio dei James Addiction, ma il manager di Frusciante non diede alla band di Perry Farrell il numero di telefono dell'allora Red Hot. Quindi chissà, magari avessero fatto questa telefonata, trovavamo John Frusciante nei James Addiction, chissà cosa veniva fuori, ma vabbè. Allora adesso ci mettiamo in collegamento con la bella città di Palermo. Rock Revolution Net. Sistema attivato. Connessione in corso. Elaborazione dati in progresso. Città di destinazione. Località selezionata, Palermo. Point to point stabilito. E siamo in collegamento con il nostro corrispondente carissimo, insostituibile, Francesco Quartararo. Francesco, buonasera, tanti auguri, buon anno. Buon anno a tutti, bentornati. Allora, com'è andato questo Capodanno? Raccontaci un po'. Bulimico, che vuoi che ti dica? E allora, no, so che è andata bene. L'unica cosa, ci siamo giocati il sindaco Orlando, nel senso che l'indomani mattina proprio si è voluto presenziare alla festa di Capodanno in notturna e al matinè a Mondello con un piccolo concerto di fronte al mare con un quartetto abbastanza ben composito, forse il Brass Quartet. Sostanzialmente ce lo siamo giocati perché non ha retto, è uscito con un comunicato stampa alquanto confuso. Senti, 50... Una cosa del tipo, ma se tornassi indietro non farei il sindaco, invece se tornassi indietro lo farei lo stesso. Sì, ti credo, insomma lui è una persona... Capita tra l'orario notturno, alcol eccetera, ma vabbè, fa niente, dai. Senti, si è parlato di 50.000 presenze al Capodanno in piazza a Palermo. Sì, sì, è andata molto bene, c'era voglia di festeggiare. Tra l'altro il punto più basso è stato toccato l'anno scorso, quando non si fece assolutamente nulla, quasi, con piccole cose organizzate nelle piazze più piccole. Però si sa, il Capodanno a Palermo è di fronte al Teatro Politeama. Infatti. L'ha fatto lì. Infatti, tu invece so che sei stato sulla neve anche quest'anno, come buona abitudine. Sì, sono stato sulla neve sull'Etna, c'è ancora neve, nonostante le temperature le scorse settimane fossero calde, devo dire la verità, sopra i 2000 metri si scia abbastanza bene. Ho incontrato pure Tata Salvaggio lì. Ah, hai capito, è andato a fare le vacanze di neve anche lui. Sì, e c'era una folta pattuglia anche di palermitani. Devo dire la verità, l'impianto sciistico dell'Etna è piccolino, però per chi ha le prime armi può essere molto interessante. Bene. Senti, invece, per questa settimana, per questi prossimi giorni, cosa accadrà a Palermo? Eventi, concerti, cosa succederà? E allora, ricomincia dopo lo smaltimento dei primi grassi da festa, ricominciano i concerti. Allora, io ho segnato 1, 2, 3, 4 concerti per questa sera. Un Friday Party al Lulu Pub, per chi ha voglia, insomma, di parlare vintage. Una festa segnata a Cefalù, guarda un po'. Ah sì, dove? Back to the 90s. Back to the 90s, sì, all'Elite in via Roma, sì. Hai visto. Bene. Organizzato da un mio conoscente, sì, propone anni 90 questa sera e poi musica anni 90 e 80. E poi Cornaduro, Hard Dolls al Piper Pub, diciamo, preferisco loro l'addizione inglese, Hard Horns, metal e rock anni 70 e 80, da gente che ha avuto altre esperienze musicali e che insomma si divertono sotto questo nome. Ho capito. E poi i nostri amici Inside the Hall, che questa sera sono allo Zazà per cominciare l'anno in bellezza. Bene, quindi insomma diverse alternative anche in provincia per questo venerdì sera, e domani si prospetta. Domani, allora, mi segnalano un Alessandro Salerno Band Quintet allo studio 22 di via Alessandro Volta, che è stata anche presente al Capodanno palermitano e a quanto pare suonerà con Mister Umberto Porcaro. Per chi non lo sapesse, insomma, è un bluesman abbastanza noto, non solo a Palermo, ma anche un discreto successo in Italia e anche conosciuto in Europa. Qualcuno mi disse una volta di averlo visto suonare con Mr. B.B. King addirittura all'Umbria Jazz Festival. Insomma, è un nome di garanzia. Bene, interessante. Quindi probabilmente è una serata di blues, no? Eh sì, nel quintetto infatti segnalo Alessandro Salerno, Umberto Porcaro, Antonio Furceri, Michele Mazzola al sax, Emanuele Cacci alla batteria, Umberto Porcaro chitarra e seconda voce e voce Alessandro Salerno. Benissimo, questo dove, scusa, in che locale? Questo allo Studio 22. Studio 22. Alessandro Volta. Perfetto. Studio 22. Perfetto. Per chi ha voglia di sentire un po' di blues cantato al femminile, a quanto pare... ci sono ottime recensioni riguardo Alessandro Salerno e staremo a sentire. Se volete provare a sentire qualcosa in anteprima, credo che su YouTube riusciate a trovare qualcosa. se poi proprio volete esserci, sabato a partire alle 8:30. Perfetto, studio 22, quindi per chi vuole godere un po' di blues, ci sta anche bene, no? Bene. Assolutamente. Poi sempre sabato segnalo il concerto di Waynes, Iotatola e Mind Enterprises al Teatro Montevergini di Palermo. Bene, tra l'altro il Montevergini che mi pare, insomma, gli scorsi anni ha sempre ospitato l'Italia Wave, questo concorso musicale. Sì, ha avuto ottimi agganci con l'amministrazione locale e regionale ed è riuscita ad accaparrarsi anche la selezione per la Sicilia occidentale delle band ad andare all'Italia Wave. Bene, bene, bene. Va bene, Francesco, se è tutto io ti dico... Allora, molto velocemente, sì. Ti segnalo anche un James Action Live alla Taverna dell'Artista in via Principe di Belmonte, un locale piccolo ma carino. Ah. E poi se invece siete animati da voglia di reggae, neurofunk, sì, neurofunk, mi dicono che è neurofunk, drum and bass, crazy rap, dubstep, Muma Batun, non so che cavolo sia il Muma Batun, comunque l'appuntamento è al Gucci Killa in Gucciria sostanzialmente. Ah, benissimo, insomma ce n'è per tutti i gusti, devo dire, questo fine settimana per fortuna c'è una ampia scelta, quindi amici ascoltatori, insomma, se volete visitate comunque anche il sito degli eventi più cliccato ultimamente, Francesco se lo vuoi ricordare. Sì, e allora si tratta di firiotaste.cloudart.it, al momento stiamo ancora ricostruendo i server che ce li avete proprio distrutti, so che... offline, ma stiamo tornando. Per curiosità potete anche consultare la pagina Facebook di Firiotape. Ecco, so che avete ricevuto davvero tantissime migliaia di richieste di segnalazione di eventi, quindi state lavorando per rendere possibile, insomma, tutti gli utenti di promuovere i propri... Tra l'altro abbiamo qualcosa in programma la prossima settimana, chi vuole può andare già a sghiacciare. Ah, benissimo, benissimo. Allora comunque troverete anche un link su rockrevolution.it, cliccate e poi potrete accedere anche con il vostro smartphone ed essere sempre aggiornati su tutti gli eventi a Palermo e provincia per non essere mai presi alla sprovvista. Francesco, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona settimana, ci sentiamo il prossimo venerdì. Ok, buon rock and roll. Ciao, ciao. Ciao Francesco, ciao. Adesso arriva un altro grandissimo classico, non mancano mai a Rock Revolution, loro sono i Doors e questo è Lover Medley. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Say Lover Medley, tratto dall'album LA Woman del 1971, ultimo disco registrato dai Doors prima della morte di Jim Morrison, ed è sicuramente da considerarsi l'album più blues della produzione della band. Visto che abbiamo parlato tanto di blues con Francesco, giustamente abbiamo ascoltato questa canzone, poi insomma i Doors, in particolare Jim Morrison, era molto legato alla musica blues. La maggior parte dei pezzi furono registrati in presa diretta, significa tutti i musicisti suonavano nella stessa stanza e registravano contemporaneamente, eccezione fatta per qualche parte di tastiera sovraincisa in un secondo momento. Lover Medley insieme a Riders on the Storm e The Changeling fu considerato come uno dei brani più rappresentativi dell'album di LA Woman. Con proprio quest'album i Doors conquistarono l'ottavo disco d'oro consecutivo, che successivamente diventerà di platino, entrando di diritto nella storia come prima rock and roll band americana capace di produrre appunto 8 dischi d'oro e di platino consecutivi. Insomma, non a caso si chiamano i Doors. Adesso arriva la new release di questa settimana, parliamo di un album del 2012 dal titolo Dead Silence, pubblicato da Billy Talent. E Billy Talent sono un gruppo canadese formatosi a Mississauga, ecco, difficile da pronunciare, nell'Ontario. Per chi gioca a risico, insomma, sa ben dove si trova l'Ontario. Dal punto di vista del genere musicale, Billy Talent vengono spesso considerati emo, cioè quelli che amano un po' il dolore, no? Che si tagliuzzano un pochettino. In realtà il loro sound può essere definito un mix tra melodic hardcore, pop punk, punk revival e alternative rock, quindi un putpurri di tutti questi generi. I brani sono piuttosto diversi tra loro, alcuni tendono più al punk mentre altri tendono più al rock. Dead Silence è l'ultimo album pubblicato, quindi il 2012, lo scorso anno, e questa sera ascoltiamo come new release di questa settimana Running Across the Track. Explode 10,000 hours every day. No time to- ogni venerdì alle 21 in diretta su CRM Happy Radio Rock Revolution, il programma rock dedicato agli artisti emergenti. Full of claws. I said, who's in the fireplace? And you tell me Santa Claus. The milkman comes in, he's wearing a derby hat. And you ask why I don't live here. Hey, how come you have to ask me that? Well, I ask for something to eat. I'm hungry as a hog. So I get brown rice, seaweed, and a dirty hot dog. I got a hole where my stomach disappeared. Then you ask why I don't live here. Hey, I gotta think you're really weird. Your grandpa's cane, it turns into a sword. Your grandma prays the pictures that I pasted on a board. Everything inside my pockets, your uncle steals. Enough to make me cry. Then a mailman comes in, even he's gotta take a side. Even the butler, he's got something to prove. When you ask why I don't live here, hey, how come you don't move? Hai una band? Vuoi far conoscere la tua musica in radio? Visita il sito www.rockrevolution.it. Run, run. We had a bad time explaining. erano i primi due brani in sequenza. Abbiamo ascoltato due canzoni davvero molto belle. La prima di Bob Dylan, On the Road Again, tratta da Bringing It All Back Home, letteralmente in lingua italiana riportando tutto a casa. È il quinto album discografico registrato in studio da Bob Dylan. Dopo la prima produzione prettamente acustica, questo album è il primo della storia con una sorta di trilogia rock, costituita oltre che da questo dai successivi album Highway 61, Revisited e Blonde on Blonde. Segna quindi di fatto l'inizio della seconda fase di ispirazione dell'artista, proiettato da questo momento in poi verso sonorità prettamente rock. Secondo brano che abbiamo ascoltato, che sentiamo ancora in sottofondo, sono i Free con The Highway Song. I Free nascono a Londra nel lontano 1968, anno particolarmente effervescente, quando Paul Kossoff e Simon Kirke, rispettivamente chitarrista e batterista dei Black Cat Bones, contattano il cantante Paul Rogers dopo averlo visto in azione con la sua blues band, i Brown Sugar. Come bassista viene reclutato il 16enne Andy Fraser. L'album a cui appartiene The Highway Song, che abbiamo ascoltato, è pubblicato nel 1971. Lo stesso anno, tra l'altro, i Free si separano al culmine della carriera per dedicarsi a progetti diversi con scarso successo per tutti e quattro, purtroppo. Torneranno insieme poi nel 1972 e dopo ripetuti scambi di formazione riusciranno a pubblicare Free at Last at Heartbreaker. Conclusa l'esperienza con i Free, Paul Rogers intraprende l'attività come solista e nel 2005, dall'incontro con Brian May e Roger Taylor dei Queen, nasce il progetto Queen più Paul Rogers, che porta la formazione ad esibirsi in tutto il mondo con un repertorio celebrativo comprendente i successi di entrambi, anche se con un taglio principalmente Queen, collaborazione che terminerà poi nel 2009. Adesso siamo pronti per la prima intervista di questa settimana con i Niños do Brasil. Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi ho il piacere di parlare? Io sono Nicolò, nonché percussionista e cantante del gruppo che hai appena citato. Oh, benissimo. Nicolò, benvenuto a Rock Revolution, tanti auguri perché insomma da pochi giorni abbiamo passato il Capodanno. Tanti auguri a te, tanti auguri a voi. Allora, da quale città ci siamo collegati questa sera? Guarda, in questo momento è un po' imbarazzante dirtelo. Mi trovo in una località di montagna che si chiama Cortina d'Ampezzo. Ah, complimenti. Per lavoro, che è la cosa che mi permette poi di fare lo scemo sui palchi e incidere dischi, ecco. Quindi una bella temperatura. Mi trovo in questa città, tira un'aria impressionante, fa freddissimo. Immagino. Ma è bello. Ma quindi suonerai stasera? Questa sera suonerai? Stasera no, ho lavorato oggi ma a cose non inerenti al settore musicale. Ah, ho capito, bene, senti, quindi sei soltanto tu, immagino, dei componenti della band questa sera con cui parleremo, giusto? Sì. Bene. Pronto? Sì, ti sento. Volevo chiederti, intanto iniziamo subito con la curiosità del giorno, che è quella di capire come mai Niños do Brasil, intanto chiedo se ho pronunciato correttamente il nome. Allora, il nome l'hai pronunciato correttissimamente. Bene. Qual è il problema che sta alla base? Che il nome è totalmente sbagliato. Ah. Perché noi siamo, devo dire la verità, devo confessarti che siamo piuttosto ignoranti in materia di Brasile. E il nome ce lo siamo, non dico un po' inventato, ma quell'evocativo che viene dal Sud America, che tutti noi abbiamo dentro comunque, e un giorno scherzando ci è venuta in mente di fare un promentone pensandoci, chiamandoci proprio Niños do Brasil e rifacendoci un po' la tradizione del carnevale, del calcio, tutto quello che è l'anima del Brasile, e abbiamo pensato di chiamarci in sto modo che grammaticalmente è del tutto errato comunque. Ho capito. Senti, noi abbiamo letto su internet che definite il vostro genere come il risultato di una miscela di batucada e noise, samba ed elettronica. Perché e come nasce questo suono, le idee iniziali, anche questa ispirazione, diciamo, no, al Brasile, penso. Sì, l'idea della batucada è una cosa che comunque ci interessava molto, perché è una cosa molto ritmata. È una festa di paese, se ci pensi, perché è il genere che poi viene suonato nei carnevali, nelle parate di strada a Rio e nelle città del Brasile. Mm-hmm. Il noise ce lo mettiamo arrivando dal nostro background comunque hardcore punk e quindi di ascolti pesanti. fatti di molto rumore, molta immediatezza e anche un po' di violenza a volte. E quindi l'insieme è stato questo, ecco, cercare di coniugare una cosa molto ritmica, molto ritmata al nostro passato, che comunque, da cui comunque non riusciamo a liberarci. Ho capito, insomma già ci sono i presupposti per l'ascolto che sembra essere molto interessante. Volevo chiederti, parlando nello specifico di questo vostro nuovo lavoro uscito pochi mesi fa, praticamente novembre 2012, appena due mesi fa, parliamo di Mojito NDB. Che soddisfazioni vi ha dato quest'album dall'uscita ad oggi, anche come riscontro insomma durante i live? Guarda, ci ha dato veramente grandi soddisfazioni, io non mi aspettavo una cosa del genere, soprattutto perché il disco è stato molto istintivo, molto immediato, il disco l'abbiamo registrato in 3 giorni, senza la minima idea di quello che sarebbe stato il risultato finale. Mm-hmm. Il fatto che poi un'etichetta come La Tempesta lo abbia ascoltato e ci abbia chiesto di pubblicarlo, per noi è stato un vero e proprio trionfo, perché certo, veramente non ce l'aspettavamo. Bello è stata la risposta del pubblico, che si è divertita, è venuta a vederci nei vari concerti live di presentazione del disco, ci sono state buone recensioni in giro sia sul cartaceo che in rete, e quindi ti dico, siamo contentissimi, ma stiamo già pensando a un prossimo lavoro, ecco. Bene, bene, è sempre importante essere attivi e produrre nuovo materiale. Noi stiamo guardando nel frattempo alcune immagini di un vostro live, non so esattamente dove, però vedo molte luci blu e non so dirti altro. Ok. Sì, è quello che ci caratterizza comunque, quindi. Bene, bene, senti, parliamo delle tracce dell'album. Sono armi fatte di percussioni esistenti come le congas, campane, djembé, rulli, piatti, claves, maracas, fischietti, campanelli, richiami per animali, insomma c'è un po' di tutto, ma anche strumenti inventati, no? Bottiglie, lattine, pezzi di legno, ciarpan indefinito. Parliamo della realizzazione di questi brani e anche dell'originalità nell'utilizzare questi strumenti improvvisati, no? Che poi in realtà non sono tanto improvvisati, perché comunque ci sono tante persone, tanti artisti nel mondo che li suonano, però ecco, l'associarli ad altri già esistenti penso sia una cosa abbastanza particolare. Sì, l'idea, come ti dicevo, era quella di fare dei pezzi che avessero un ritmo che coinvolgesse la gente, coinvolgesse lo spettatore medio dei nostri concerti e coinvolgesse in prima parte noi stessi. Io, sai, ho sempre suonato, è una parola grossa, la batteria e le percussioni, quindi mi sono dedicato molto a quella parte, alla parte percussiva. L'idea di associarci al Brasile è anche un'idea un po' di favelas, insomma, di luogo in cui devi un po' arrangiarti coi mezzi che hai per poter fare certe cose. E quindi, sai, è molto facile percuotere una batteria, dei piatti, dei timpani. Certo. Risulta più interessante percuotere stoviglie, spazzatura, cassonetti, tutto quello che è bottiglie, lattine, tutto ciò che arriva proprio dal consumo giornaliero, ecco. Mm-hmm. Cose che non serve saper suonare, basta saper percuotere e farle suonare nel modo che preferisci. Beh, si parla tanto di riciclaggio in questo caso, insomma, i prodotti sì, esatto, vengono riciclati. Esatto, esatto, è un disco da riciclaggio questo. Senti, allora adesso noi questa sera ascolteremo un brano tratto da questo vostro nuovo lavoro che si intitola Tupelo. Sì. Volevo domandarti anzitutto cosa significa. Assolutamente niente, è una parola inventata anche quello, come il testo della canzone. La cosa che mi piace di Niños do Brasil è il fatto che la gente, quando ci ascolta o ci vede dal vivo, non pensi, non debba essere vincolata da un testo più o meno profondo, introspettivo, non debba cercare di interpretarlo. A me piace che la gente senta parole che non hanno nessun significato. Mm-hmm. E si lasci prendere dal ritmo, possibilmente. Ecco. Certo, certo. Bene, allora noi siamo ansiosi di farci prendere dal ritmo dei Niños do Brasil. Volevo chiederti in conclusione dove è possibile ascoltare la vostra musica, se avete un sito internet, se è possibile ascoltarla, scaricarla, comprarla. Guarda, noi non abbiamo un sito internet, fa fede la nostra pagina Facebook. Su SoundCloud comunque trovate tutto il disco in ascolto. e oppure è acquistabile sia in vinile che in CD o in versione digitale. Ah, bellissima questa cosa del vinile. Devo chiederti assolutamente come mai la scelta, insomma, di produrre anche in vinile. Allora, guarda, sia io che Nico che Riccardo, cioè gli altri due componenti del gruppo, come dicevo prima, arriviamo da un background hardcore punk e per noi il CD è l'ultimo dei formati che acquistiamo quando facciamo i nostri acquisti o i nostri ascolti regolari. Sì. Il vinile è la cosa a cui teniamo particolarmente, nel senso che è un oggetto, è una cosa che puoi utilizzare in diversi modi, dall'arredamento al... ed ha un suono che è molto più caldo, ecco. Certo. Quindi per noi assolutamente la pubblicazione in vinile di quello che è stato, in questo caso Muito NDV, e di quello che sarà in futuro. Ci sarà sempre la versione digitale perché è comoda e attecchisce molto di più verso un certo tipo di clientela, però il vinile per noi diventa fondamentale. Il fascino del vinile, di mettere il disco, puoi piazzare sulla puntina, insomma, intramontabile. Esatto, anche disco che poi è limitato, è numerato a mano, le copie sono quasi esaurite. Quindi una cosa che nel bene o nel male, una cosa di cui nel bene o nel male magari se ne potrà parlare anche in futuro. Ecco. Certo, certo. Va benissimo, Nicolò, per me è stato un piacere, per noi è stato un piacere conoscere la vostra musica, il vostro progetto. Vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo, speriamo di sentirci presto nuovamente con delle novità, insomma, che vi riguardino. Va bene? Grazie a voi. Un abbraccio. Un abbraccio, buona serata. Grazie a voi, a presto. Ciao, ciao. A Rock Revolution, la musica emergente, questa sera ascoltiamo i Niños do Brasil con Tupelo. Ogni venerdì alle 21 su CRM Happy Radio Rock Revolution, l'appuntamento rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Rock Revolution è anche su internet all'indirizzo www.rockrevolution.it. Rock for You, i quattro successi rock più belli di tutti i tempi in sequenza mixata. Truth. For You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. For You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Rock for You, quattro successi rock in sequenza, senza interruzione. Era il Rock for You di questa settimana, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni questa settimana, insomma ragazzi, eh? Abbiamo fatto ascoltare le grandi canzoni, abbiamo iniziato con i Black Sabbath con Sabbath Bloody Sabbath, è un brano heavy metal del gruppo inglese Black Sabbath, è la prima traccia e title track del loro quinto album in studio del 1973. Il riff di chitarra della canzone è famoso come il secondo riff che salvò i Black Sabbath, pensate un po', dovuto al fatto che Tony Iommi in quel periodo fu colpito dal blocco dello scrittore. Aia. E quando c'è il blocco, e per trovare l'ispirazione ricorse a misure drastiche, tra cui l'affitto del presunto castello infestato di Clearwell, pensate un po'. Questo brano ha la particolarità di essere stato eseguito poche volte dal vivo durante gli anni 70. Seconda canzone del Rock for You di questa settimana, l'immancabile AC/DC con Bad Boy Boogie, tratto dall'album Let There Be Rock del 1977, quarto album degli AC/DC. Se con la title track di Dirty This... Ah, questo è difficile, aspetta, devo prendere fiato. Dirty This, Don't Dirty Cheap, avevano aggiunto un altro futuro classico al proprio repertorio. Si può affermare che fu con Let There Be Rock del 77 che gli AC/DC trovarono la propria dimensione, liberandosi definitivamente dalle sfumature pop ancora percepibili su parte degli album precedenti. Let There Be Rock è un album grezzo e senza compromessi che rivaleggia con la musica punk del periodo per impeto ed immediatezza, pur non sacrificando le componenti rock and roll e blueseggianti caratteristiche del gruppo. Terza canzone del Rock for You di questa settimana è Deep Purple con Dead or Alive del 1988, tratto da The House of Blue Light, dodicesimo album in studio dei Deep Purple, uscito nel 1986. Curiosità, dopo il gran successo riscosso con Perfect Stranger dell'84, i Deep Purple hanno una missione da compiere, un po' come i Blues Brothers: mantenere la fiducia dei fan. Siamo nel 1986, i rapporti tra Ian Gillan e Ritchie Blackmore non vanno più bene, i due litigano sempre più spesso, e proprio questo il motivo del successo ottenuto con l'album The House of Blue Light. L'album non è pessimo, ma non presenta la stessa convinzione e grinta del precedente Perfect Strangers. Le performance sono sempre al top, ma è la musica che non riesce a conquistare i fan, che dopo l'uscita di questo disco rimangono un po' delusi, ma non noi. Ultima canzone del Rock for You di questa settimana erano i Led Zeppelin con Headbreaker, una famosa canzone del gruppo inglese Led Zeppelin contenuta all'interno dell'album Led Zeppelin 2 del 1969. Il brano è uno dei più famosi dei Led Zeppelin e consiste in un riff ripetuto per tutta la durata della canzone che si interrompe solo quando Jimmy Page esegue l'assolo. La canzone è anche presente nel film The Song Remains the Same ed introduce un altro famoso brano dei Led Zeppelin che era Whole Lot of Love. L'assolo contenuto nella canzone è uno dei più belli mai realizzati da Page ed è stato votato dai lettori della rivista Guitar World come 16° assolo più bello tra i 100 best solos of all time, quindi 16° fra i 100 più belli assoli di tutti i tempi. Alcune curiosità leggiamo. La prima è che Eddie Van Halen imparò il tapping cercando di imitare, senza successo purtroppo per lui, l'assolo contenuto in questa canzone. Altra curiosità, una cover di questa canzone venne realizzata dai Nirvana ed è contenuta nel cofanetto With the Lights Out, che contiene tra l'altro anche un bellissimo DVD che il sottoscritto ha personalmente acquistato. Adesso andiamo ad ascoltare l'intervista di questa settimana, ad ascoltare, cioè ve la presento e voi l'ascoltate, con l'ospite di questa settimana. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Più che ospiti, a dire il vero, sono in due, cioè il cantante e la chitarra. Abbiamo il piacere di avere nuovamente in studio con noi Francesco Vannini. Ciao a tutti. Francesco, buona, senti che standing ovation anche per te stasera, veramente il pubblico di Rock Revolution è caldo e virtuale come un pezzo di ferro. Sì, ce l'abbiamo davanti. Praticamente sì. Allora, iniziamo subito col darvi l'indirizzo Facebook di Francesco Vannini, che è abbastanza complesso, però potete trovarlo semplicemente su Google, quindi www.facebook.com/francesco.vannini.dinecessitavirtù. Con due V. Perfetto, e senza l'accento ovviamente. Allora, diciamo che Francesco è un componente, un ex componente di una band che abbiamo già intervistato in passato, una cover band, tribute band molto interessante, e si è rinnovato, diciamo così, musicalmente, no? Con un percorso da solista, anche esatto. Se poi in realtà dal vivo si è accompagnato da tre bravissimi musicisti come Giulio Perriera alla batteria, Riccardo Romano al basso e contrabbasso e Giuseppe Madonia alla chitarra elettrica. Dico bene? Sì, c'è un appunto da fare. Benissimo, vai pure. Giulio è Giulia. Ah, quindi Giulio, pardon, Giulia ma, Perriera. Dico, non preoccuparti, perché in realtà Giulia ha deciso di prendere altre strade, per cui al posto di Giulia c'è Stefano D'Amico alla batteria. Ah, perfetto, abbiamo quindi Stefano D'Amico alla batteria. Esatto. Allora, come anticipato, sei stato già ospite diverse volte nel nostro programma, la cosa ci riempie di gioia, perché sappiamo inoltre che, tra l'altro, è confermato il fatto che chi viene a Rock Revolution poi ha una benevolenza da parte del pubblico. l'ultima risale a marzo dello scorso anno. Cosa è cambiato da quest'ultimo incontro? Un bel po' di cose. Ecco, raccontaci tutto. L'anno scorso vi ho annunciato diverse date fuori dalla Sicilia, Vicenza e Roma su tutte. Vicenza è andata bene, abbiamo registrato, ho registrato perché sono andato da solo 3 canzoni per uno TV, che è una web TV specializzata in musica. Uh-huh. E nessun problema, tutto bene. Roma era un appuntamento di un'associazione che si chiama Salotto Cantautori. Salotto Cantautori, che è un posto dove i cantautori emergenti italiani promuovono la propria musica. Ho avuto la fortuna di farlo nel locale The Frag di Roma, davanti a tale Ernesto Bassignano. Che diciamo, cos'è il The Frag di Roma? Il The Frag di Roma è un'associazione, è un bel localino, tra l'altro. Piccolo, frequentato da una certa sì, esatto, cerchia di persone. Sì, nonostante il quartiere che è un po' defilato dal centro, perché uh-huh, è il tufello di Roma. Ho avuto la fortuna di suonare davanti a Ernesto Bassignano, dicevo, che è un cantautore della scuola romana dei tempi del folk studio, per cui parente artistico dei vari De Gregori, Venditti, ed è stata una bella esperienza. Ho anche beccato i complimenti dallo stesso Ernesto. Hai capito? E quindi, sai, sono soddisfazioni. Poi, a dimostrazione del fatto che Rock Revolution porta bene, a parte i concerti e i vari contest ai quali abbiamo partecipato in Sicilia, c'è stato un altro un bel concorso, un altro bel festival. Mi raccontavi di Biella. Esatto, Biella. Il Biella Festival 2012, che ci ha portato molta fortuna, perché da figli di nessuno, sconosciuti ai più, ci siamo presentati nel mondo musicale del cantautorato emergente italiano e abbiamo fatto la nostra bella figura. Siamo arrivati secondi, quindi targa di secondo posto. In più, la canzone Bomboletta Spray, che è stata la prima che vi ho fatto sentire l'anno scorso, ha vinto la targa per la più spiccata personalità artistica. Hai capito? Targa sia è intitolata alla memoria di Sergio Endrigo, per cui caspita. Ebbè, insomma, siamo contenti per te, la cosa ci riempie veramente di gioia. Al di là di questi riconoscimenti senza dubbio importantissimi, volevamo chiederti, insomma, se dal tuo punto di vista c'è un'evoluzione nel tuo percorso a livello di testi o per quanto riguarda la componente musicale. Sì, per forza di cosa. L'anno scorso ero reduce, cioè sarebbe stato il 2012 il mio primo anno da solista, per cui si arrivava da un assetto, quello della band, in cui il modo di lavorare è diverso, nel senso che sì, scrivevo testi e musiche, ma poi gli arrangiamenti ci portavano lontano, spesso anche lontano dalle mie idee personali musicali. Mm-hmm. Adesso, come dire, sono il mio direttore artistico, per cui la responsabilità è tua. La responsabilità è mia e bisogna iniziare ho iniziato a scrivere canzoni pensando già agli arrangiamenti, pensando già a un'idea ben precisa, per cui da lì non ci si scosta. I musicisti che ho adesso sono molto bravi a seguirmi, e non è facile certe volte seguirmi. Certo. Però sicuramente rispetto all'assetto di band, da solista viene fuori di più, per forza di cose, il mio carattere, il mio modo di scrivere. Assolutamente, certo, la tua personalità. Senti, siccome noi abbiamo anche delle spie, no, su internet che vanno a sondare su tutti quanti i nostri ospiti, in un tuo recente post hai detto di voler mettere un po' da parte la chitarra e dedicarti al piano. Sì, questa sera sei venuto con la chitarra. Dici che per forza di... per forza c'era chi cantava di pianoforti sulla spalla, ma non mi è sembrato il caso, anche perché la scalinata per arrivare qui è abbastanza infatti. Però raccontaci di questa cosa qui, cioè come mai... In realtà, a dimostrazione del fatto che non sono molto normale, sono abbastanza strano, il pianoforte sarebbe la normale prosecuzione del mio lavoro, perché è l'unico strumento che ho studiato davvero. Io ho studiato pianoforte classico fino al 5° anno di conservatorio. La chitarra l'ho imparata da autodidatta, chiaramente per motivi di spazio, per motivi di praticità è andata avanti la 6 corde. Certo. E gli 88 tasti del pianoforte, insomma, arriveranno. Quando è stato possibile li ho suonati con Marcello di Qualsiasi, nel tributo a De Gregori ad esempio spesso mi si trovava al pianoforte. Adesso l'intenzione è quella di portare in giro le mie capacità, si spera, di pianista più spesso, per cui magari anche con un cambio di sound lo scopriremo poi prossimamente nei nostri schermi. Nel frattempo andiamo ad ascoltare subito la prima canzone che Francesco Vannini ci presenta questa sera. Si intitola Di necessità virtù. Una gran cassa, una chitarra acustica, un kazoo, una manciata di armoniche, una voce così così e un giubbotto abbastanza pesante. Me ne voglio andare. voglio andarmene a suonare di necessità virtù, come ho imparato a fare, come l'aria che condisce il pane, come il salame che è diventato verde, come il riso nei contenitori del sale, come ciò che si trova e si perde. Ho una barba che cresce piano, i capelli che cadono veloce, una donna che m'accompagna, una sedia rossa mezza sfondata, un paio d'occhi piccoli e il naso dritto. E me ne voglio andare, voglio andarmene a cantare di necessità virtù, come ho incominciato a fare, come il vento che ti asciuga, come la pioggia che disseta, come un migno dentro all'orecchio, come l'odore di un calzino vecchio. Ho un cervello evaso speciale, un discorso che non ho finito, una risata di nervosismo, un'ulcera in fondo all'ombelico, un giornale sotto la maglia, un guanto nero, l'altro marrone. E me ne voglio andare, voglio andarmene a respirare di necessità virtù, come pare debba fare, come la carta igienica nei bordi di un cesso, come le briciole sulla tovaglia, come il bicchiere ancora sporco di rosso, come i blue jeans ma di un'altra taglia. Un nome vero, un nome falso, un cognome qualsiasi, uno per le feste, un buon cartone di cazzate, una botte di buone no, di necessità virtù, e non ne parliamo più. Dobbiamo parlarne invece, insomma, di necessità virtù, è proprio così, insomma, sì. È il titolo di una canzone, ma in realtà è il succo della vita, no? Sì, tra l'altro anche qua io faccio le cose al contrario, il processo era, il progetto era di necessità virtù, e la canzone è arrivata dopo. Senti, volevo chiederti una cosa, no? Perché ascoltando un po' la canzone mi è venuto in automatico, no? Di pensare, di ricordare alcuni artisti, alcuni cantautori italiani, in modo particolare Lucio Dalla. Lucio Dalla, tra l'altro quando l'anno scorso sono venuto qui, forse era il giorno dopo la morte di Lucio Dalla, allora non mi vorrei sbagliare, comunque... Se non ricordo male, sì, purtroppo proprio in quel giorno scomparve uno dei più importanti, insomma, cantautori italiani, e riascoltare questa canzone un pochettino, no? Riascoltare il megafono, riascoltare questa parte parlata, cantata, riascoltare anche un po' una forma di autoironia, no? Nella canzone. Assolutamente. Di allegria, questi ritmi un po' particolari, mi ha ricordato questo grandissimo artista che è Lucio Dalla. Volevo chiederti, fra i tanti artisti, insomma, che sicuramente hanno influenzato la tua cultura musicale, che rapporto hai con Lucio Dalla? Lucio Dalla fa parte del mio bagaglio di ascoltatore di musica, non può essere diversamente. Anche l'anno scorso ti dicevo che i cantautori di questa scuola e di quegli anni sono quelli che mi hanno formato di più, ascoltavo quelli, per cui quando mi dici Lucio Dalla mi stai parlando di qualcosa che conosco bene e che sicuramente, visto il risultato, in qualche modo si riflette in ciò che faccio. È un bene o un male? Non lo so. In realtà c'è tanta gente che parla di rimandi a Ivan Graziani nelle mie canzoni piuttosto che della famiglia Bennato, sia Eugenio che Edoardo. Mi fa piacere, però sono Francesco. È giusto, no? È importante dire questa cosa, però secondo me è anche bello, no? Poter, come dire, risentire un po' nelle canzoni di un artista nuovo quelle che sono poi anche un po' le sonorità e le caratteristiche di grandi artisti del passato. Non invento nulla, per cui ritrovare dei rimandi così importanti, perché stiamo parlando di Lucio Dalla, non dell'ultimo arrivato. Infatti, sono cose che fanno piacere. Bene, allora Francesco Vannini a Rock Revolution per parlare insomma di quello che è successo in questo anno di assenza dai nostri studi. Abbiamo sentito dalla sua voce insomma che ci sono stati diversi eventi molto importanti che hanno agevolato la sua carriera musicale. Volevo chiederti, visto che insomma ormai sei entrato nel business musicale, diciamo, no? Cosa ne pensi di questo mercato musicale ormai ricolmo di prodotti preconfezionati? Ad esempio parliamo di prodotti televisivi, di format televisivi, non so, X Factor ad esempio, Amici. Pensi che talento a parte ci siano artisti della televisione che tolgano spazio vitale ai cantautori che meriterebbero la stessa visibilità? Domanda facile e difficile risposta. Il mercato musicale all'infuori di questi talent show purtroppo ha in questo momento poco da offrire e pochi soldi da investire, per cui ti direi, da cattivo e forse anche un po' invidioso, che molti di questi artisti che vengono fuori avranno vita breve, ma te lo dico non tanto per una mancanza di talento, che può esserci o no, è da dimostrare, ma per il fatto che vengono considerati poi dalle case discografiche che li producono come dei prodotti da spremere all'osso finché funzionano. Ne abbiamo la dimostrazione con le varie edizioni di X Factor che vanno da più di 2 anni fa in poi, non ci ricordiamo chi sono, non sappiamo, certo, che fine hanno fatto. Vedi Marco Carta, che io personalmente non ho idea di che fine abbia fatto. Vedi Scanu, questa gente è sicuramente brava, io non voglio mettere bocca su questo. Il problema è che molti di questi nascono in queste trasmissioni e non sanno che fare il musicista significa vivere in un mondo che non è farcito di bambagia come quello che hanno conosciuto. Significa andare a cercare serate, significa mettersi in macchina il pomeriggio per andare a fare una trasferta e tornare l'indomani mattina stanchi. Significa trovare, quando va bene, un centinaio di persone, e quando va male suonare per i gestori dei locali e basta. Certo, certo. Per cui sì, tolgono spazio, ma d'altronde se non ci fossero questi probabilmente non ci sarebbe nulla. Assolutamente d'accordo. Senti, comunque è vero anche che ci sono degli artisti che comunque hanno partecipato a questi talent show e che poi hanno effettivamente avuto un ritorno di immagine molto forte, anche avevano probabilmente un talento di base che poi si è evoluto. Ad esempio, non so, mi viene in testa in questo istante Noemi, per esempio, che ha una bellissima voce e ha proseguito Marco al di là Mengoni, di quello, Marco Melegoni, no? Cioè. Sì, siamo d'accordo. Purtroppo parlando dobbiamo necessariamente generalizzare. In generale io confermo quello che ti ho appena detto. Poi è chiaro che quando ci sono questi squarci di sole come Noemi con la sua voce o come Marco Mengoni con la sua voce, chiaramente ti fa piacere. Il problema reale è che li puoi valutare per il prodotto confezionato che ti danno. Noemi non scrive i suoi testi, Marco Mengoni non mi risulta che scriva i propri testi. Insomma, chi sono questi, oltre certo, a delle belle voci? Certo, hai ragione. Allora, adesso invece ascoltiamo i testi e la musica di Francesco Vannini. Cosa c'è dal vivo? Tutto quanto rigorosamente dal vivo, sì. Una voce e una chitarra, cosa ci fai ascoltare? Vi faccio ascoltare la canzone che mi ha portato più fortuna finora. Che si intitola? Bomboletta Spray. Bomboletta Spray. La dedichiamo a Salvo questa canzone. A Salvo. Ti hanno dato in dotazione solo una bomboletta spray, col peperoncino dentro per tirarti via dai guai. Perché adesso è una missione ripulire la città da clandestini e culattoni, da chi invade il tuo al di qua. Ti hanno dato in dotazione solo una bomboletta spray e la capacità di offrire soluzioni per i guai. E ha smesso di comprare dischi perché pare siano rom. E ha smesso di cantare in giro vagabondo che non sono altro. E si è approdata alla TV dentro canale nazionale, spacciando la tua bomboletta per novità sensazionale. Immaginate una mattina tutta la città pulita, è un'idea più che divina, buona anche per l'insalata, per l'insalata, per l'insalata. Ma ti hanno dato in dotazione solo una bomboletta spray e migliaia di persone da plagiare come vuoi. Ti hanno dato in dotazione solo una bomboletta spray che è trasformato in convinzione che il diverso porti guai. E si è approdato alla TV dentro al canale nazionale spacciando la tua bomboletta per novità sensazionale. Immaginate una serata tutta la città smacchiata senza neanche una puttana alla fine della giornata. E si è approdato in Parlamento con legge ad hoc per ripulire la città da chi è diverso riguarda reddito e colore. Immaginate i miei colleghi ritornando dal lavoro, solo spray al peperoncino e nemmeno un clandestino, no, no, no. Ma ti hanno dato in dotazione solo una bomboletta spray col peperoncino dentro da ficcarti dove sai. Sarebbe? Dove sa, vuoi proprio. Lasciamo all'immaginazione. Francesco Vannini a Rock Revolution, questa è la bomboletta spray. No, l'ho dedicata a un amico, Salvo, che ci... Spero che ci non sta, per il finale. Non per il finale, perché lui lo sa, insomma. Allora, Francesco Vannini, Francesco, volevo chiederti, intanto, dove è possibile ascoltare la tua musica? Se esiste una pagina internet, un profilo Facebook? No, il profilo Facebook ne abbiamo parlato. Sì. C'è un canale MySpace dove ascoltare o comprare la tua musica? Il MySpace, non devo essere sincero, non lo aggiorno da una vita. E beh, è passato anche un po' di moda, effettivamente. Esatto, è anche un po' difficile da gestire ultimamente. C'è una bella piattaforma che si chiama SoundCloud, dove basta cercare Marcello Qualsiasi. Purtroppo questo è un retaggio che rimane del passato. E ci sono un bel po' di canzoni, sia della produzione nuova, quindi del progetto di Necessità Virtù Solista, sia cover riarrangiate da me, piuttosto che le canzoni passate di Marcello Qualsiasi, il famoso EP di un paio d'anni fa. E quindi basta collegarsi lì, cercare e qualcosa la trovate. Benissimo, senti, adesso visto che siamo passati ormai all'anno nuovo, parliamo proprio del nuovo anno. Cosa hai in progetto per il 2013? Hai dei lavori pronti in cantiere? I lavori pronti in cantiere sono quelli dell'arrangiamento serio, da studio, con la band che mi accompagna. Perché, insomma, per fortuna girando anche fuori dalla Sicilia, che è una fortuna che non capita tutti i giorni, non capita a tutti, qualche cosa si sta muovendo, non ve ne parlo anche un po' per scaramanzia. No, vabbè, ma fai insomma bene. Si profila la possibilità di realmente registrare qualcosa, andare in giro, fare una promozione un po' meno casalinga, un po' più professionale. Per cui, insomma, arrangiamento di questi pezzi. Poi il pallino del pianoforte di cui parlavamo prima porta dietro anche il cambiamento del sound che in qualche canzone vorrei apportare. Insomma, mi piacerebbe. Ecco, infatti, volevo chiederti proprio questo. La prossima domanda era se pensi di mantenere inalterato il tuo genere nei prossimi lavori o hai pensato di introdurre qualche elemento di diversità. Restare inalterati, se si tratta della stupidità, della coerenza, no. perché non credo di essere molto coerente musicalmente, tra l'altro. Sì, i cambiamenti ci sono, ma perché sono fisiologici. Portarsi dietro il pianoforte per me significa anche a questo punto ammorbidire un po' il sound, suonare piuttosto non so che col basso elettrico o col contrabbasso. Riccardo Romano, che suona con me, è capace a suonare sia il basso sia il contrabbasso, per cui sfruttiamolo al meglio. Certo. Magari avere una batteria meno picchiata e più spazzolata. Per cui insomma cercare di ammorbidire un po' il sound sicuramente, magari non per tutta la produzione, perché ci sono canzoni come Bomboletta Spray che se le riproponi con le spazzole e col pianoforte chiaramente certo. perdono di mordente. Certo. Però insomma qualche cambiamento sotto questo punto di vista lo vorrei fare, spero di farlo presto. Beh, sicuramente arriverà il giorno migliore, no? Eh sì, eh sì. Lo ascoltiamo adesso, Francesco Vannini, Il giorno migliore. Oggi è il giorno migliore, perché torno da te. Resta lì ad aspettare, sto per arrivare. Oggi è il giorno migliore per portarti al mare. Oggi è un giorno perfetto, guarda un po', che sole. Oggi è il giorno migliore, sto arrivando da te. E apri questo portone, non ti fare pregare. Oggi è un giorno perfetto per fare l'amore. Oggi è un giorno migliore per tornare a vivere. Sei il meglio di me, nel meglio di te. Guardare, sai passarmi sul cuore senza mai calpestare. L'inverno che abbiamo dentro dovrà passare. Prendi questa sabbia, questo sole. Francesco Vannini, Il giorno migliore su CRMP Radio all'interno di Rock Revolution. Andiamo a conoscere le nuove realtà musicali, gli artisti emergenti, e questa sera lo facciamo con un cantautore di gran rispetto, insomma, dalla bellissima città di Palermo, per l'appunto Francesco Vannini. Francesco, la giornata ideale di Francesco Vannini. La giornata ideale di Francesco Vannini è quella che comincia con molto stress e finisce sul palco. Perché inizia con molto stress? Perché quando... Cosa ti stressa? Nella giornata ideale chiaramente si suona alla sera, davanti magari anche ad un pubblico. Quindi quando ci si sveglia si è stressati perché si devono preparare 32.000 cose. Certo. Non funziona come coi grandi che arrivano prima gli strumenti e poi loro. E c'è anche chi gliele accorda. Esatto, nella realtà arrivo io, mi carico la roba, mi monto il palco e vado a suonare. Per cui tanto stress, stanchezza. Poi quando si sale sul palco magicamente scompare. Quando scendi dal palco ricompare amplificata 10 volte perché sei anche stanco. Certo, certo. Però, giornata ideale. Conclude la giornata, sì, con la musica dal vivo, comunque fa passare tutti i dolori. Perfetto. Solo gioie. Poi volevo chiederti un'altra cosa. Allora, in questa canzone, Il giorno migliore, come forse mi sembra anche nella scorsa Bombolette Sprite, si sente l'effetto di megafono un po' nella, sì, nella parte cantata. Megafono, adesso facendo un'analisi psicologica. Che non è un grande fono. È una necessità di comunicazione alla massa, questa. Ma in una canzone del genere... Cioè proprio materialmente il megafono è uno strumento che viene utilizzato per poter comunicare alla massa. Sì. Forse in livello generale, sì, introspettivo, Francesco, hai questa necessità, questa volontà di comunicare ad una massa di persone un qualcosa? Credimi, non ci avevo mai pensato, soprattutto applicato al giorno migliore, che è una canzone d'amore poi sostanzialmente. Però insomma segna anche l'inizio di un periodo nuovo nella mia vita, per cui chissà, magari anche rendersi conto inconsciamente di stare bene porta anche a utilizzare il megafono senza rendersi conto. Certo, certo. Per urlare il benessere che si prova. Ogni tanto capita di stare bene, ecco. Allora io adesso ti chiederei di, se hai voglia, insomma, di farci ascoltare un'altra bella canzone dal vivo. Certo. Cosa ci fai ascoltare? Questa è una canzone che ogni tanto si ha paura di non poter rifare dal vivo. Aia. Però... No, però poi siccome l'Italia cambia per non cambiare mai, l'ho rimessa in scaletta quando suono e ve la suono anche adesso. Si intitola Non vedo, non parlo, nonsense. Francesco Vannini a Rock Revolution, buon ascolto. Da grande costruirò un ponte, da Messina fino a Milano. Lo farò con mille corsie di plastica e vetro di Murano. Da grande mi ricresceranno i capelli dei folti ciuffi, colore del grano. E la mia pelle tornerà tesa con la sola forza del botulino. Non vedo, non parlo, nonsense. Da grande avrò un regno tutto mio, dove fare tutto quello che credi. Sarò venerato quasi fossi un dio, ma saranno banditi souvenir a tre piedi. Da grande avrò mille miliardi per me nelle tasche di tutti i miei cari, così non si potranno avere sospetti, niente conflitti di interesse. Non vedo, non parlo, nonsense. Non parlo, non vedo, nonsense. Da grande sarò il capo di tutti i giornali, le TV dipenderanno da me, così potrò certo assicurare la mia libertà di comunicazione. Da grande avrò mille più capi d'accuse, sceglierò solo il miglior tribunale, che poi non ho niente da temere, ho l'immunità parlamentare. Non vedo, non parlo, no. l'ultima. Non parlo, non vedo, non senso. Francesco Vannini a Rock Revolution. Francesco, è sempre un piacere averti in studio. Grazie. Con la tua musica, poi sono appassionato di blues, quindi per me sentire queste canzoni, insomma, è veramente un immenso piacere. Ti facciamo tanti complimenti per la tua prossima carriera, perché sappiamo che ci sarà, non è un augurio, è una certezza. C'è un messaggio da un'ascoltatrice, dice: Titti diceva senza capelli, allora è per te Filippo. Grazie, troppo gentili. Diventi grande, ti cresceranno i capelli. Beh, c'ho 35 anni. Quando si diventa grandi, non so che età. La tappa. Speranza è l'ultima a morire. Esatto. Chi vi sta sperando morì, non si può dire. Ma mi sta bene così anche. Senza... Ma, non c'è problema. Francesco, ancora grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Appuntamento al prossimo anno, perché così, insomma, noi abbiamo diventato un appuntamento fisso quello di avere Francesco con noi. Portatemi bene e torno. Assolutamente, assolutamente. Grazie ancora e buon ritorno grazie a Palermo. A te, grazie a tutti, ciao. Francesco Vannini a Rock Revolution. Adesso ancora qualche canzone, poi sorpresona di questa sera. Avremo fra pochissimo al telefono Rigo Righetti, ex bassista di Ligabue. When darkness falls and surrounds you, when you fall down, when you're scared and you're lost, be brave. I'm coming to hold you now, when all your strength your life has slipped away. Follow me, you can follow me, and I will not desert you now. When your fire's died out, no one's there. They have left me for dead. Follow me su CRMP Radio con Rock Revolution. Adesso, come annunciato, insomma, abbiamo il piacere e l'onore di avere al telefono con noi un artista grandissimo. Parliamo dell'ex bassista di Ligabue, Rigo Righetti. Rigo, buonasera. Buonasera, grazie del dell'invito, grazie dell'opportunità e grazie della presentazione, speriamo di meritarcela, ecco. Te la meriti, come non te la meriti? Senti, vabbè, allora partiamo dal passato. Sappiamo tutti che sei stato il bassista di Ligabue, vanti diverse importanti collaborazioni. Quando è che hai deciso di lavorare come solista? Che sappiamo appunto Ma che... In realtà non è che è una decisione, diciamo, che uno prende in un momento specifico e proprio dici adesso d'ora in poi lavorerò da solista. È una cosa che è frutto di una necessità interiore di comunicare musicalmente delle cose che senti venire dall'interno, che sono più forti della convenienza, nel senso il mestiere del bassista è un mestiere che faccio con molto, molto piacere, lo continuo a fare, però ho bisogno di raccontare anche la mia parte di storia direttamente, e questo è la motivazione per seguire un progetto mio, ecco, che certo. Poi ha preso diverse forme, perché inizialmente ho iniziato a produrre e a registrare dei dischi in inglese, e poi adesso c'è questa italiana che mi sta dando diverse soddisfazioni, ecco. Senti, come ricordi l'esperienza accanto di un artista di rilievo come Ligabue, e poi ci incuriosisce anche sapere come è nata questa collaborazione? Vabbè, è nata in modo molto naturale, per come nascono queste cose in ambiente musicale, nel senso che credo ci fosse un rapporto di stima reciproco, che è facilitato dal fatto di una vicinanza anche geografica, nel senso che comunque siamo entrambi emiliani, per cui si gravitava attorno a un ambiente che era conosciuto, era quello del rock di stampo americano. Noi, cioè, sto parlando di me, però anche di Robby, di Mel, suonavamo in un gruppo che si chiamava Rockin' Chairs e ci si è incrociati qualche volta, e poi diciamo che è iniziata una collaborazione più stretta, che ha portato comunque sia a registrare diversi dischi che hanno avuto molta fortuna anche commercialmente, e a fare tantissimi concerti dal vivo, oltre che a tutto l'aspetto promozionale, i video e tutto il resto. Per cui è una cosa nata sull'onda di un movimento che comunque esisteva, che adesso esiste un po' meno, che è quello del rock della nostra zona, ecco. Certo. Senti, sul MySpace elenchi tantissime influenze. Quali sono le maggiori influenze che ritrovi maggiormente nei tuoi brani, nelle tue canzoni? Vabbè, dette da me, diciamo, quelle del MySpace è un po' un gioco, però in realtà sono tutti musicisti che mi hanno toccato e che mi hanno influenzato. Sicuramente, se devo dividere un'estrazione geografica, la mia ispirazione va più all'America che all'Inghilterra, per cui è pochissimo italiana la mia formazione, molto più esterofila, e soprattutto è influenzata dal sound, diciamo, roots, o comunque delle radici della musica americana, per cui il blues, il soul, il rock and roll anni 50, però anche con diverse componenti degli anni 70, i grandi gruppi della West Coast, nonché che ne so, gruppi come i Little Feat o gli Allman Brothers, ecco, questi sono i miei riferimenti, più o meno. Bene, senti, parliamo del tuo ultimo lavoro, che è un EP dal titolo Solo. Come lo descrivi ai nostri ascoltatori? Ma è un disco solo, che è un EP con 5 canzoni che sono cantate in italiano su dei testi scritti da un'autrice, i testi non sono miei, io ho fatto la parte musicale, e proprio per questo credo che rappresenti una sorta di connubio piuttosto originale tra delle liriche che sono comunque permeate di una visione comunque femminile, e un aspetto musicale più maschile, per cui l'unione di queste due componenti in una cornice comunque rock o comunque d'autore, per cui influenzata da quello che dicevamo prima, da una serie di componenti che riguardano la canzone d'autore americana. È un una musica che potete trovare anche in rete, per cui c'è anche un video che è un po' una sorta di introduzione a questo tipo di proposta, che vi invito ad andare a vedere appunto su YouTube cercando solo Rigo, e lì lo potete vedere. Ecco. Ecco, tra l'altro il videoclip realizzato appunto sul singolo è stato fatto in collaborazione con la Fandango, che vede il preziosissimo apporto di un professionista pluripremiato come Gerardo Gossi, già direttore della fotografia di Luciano Ligabue. Ci vuoi parlare di questa realizzazione? Tra l'altro stiamo guardando mentre ti intervistiamo proprio questo videoclip molto bello. Ma guarda, il video l'abbiamo girato qui a Modena in uno spazio che è un archivio di costumi appunto usati per il cinema, che appunto mia moglie ha qua a Modena, ed è un ambiente molto suggestivo che abbiamo adattato alle riprese del video utilizzando anche delle opere pittoriche, che sono quelle che si vedono lungo tutto il videoclip, che creano una sorta di cornice, diciamo, anche emozionale sulla canzone, nella canzone. Tieni conto che sono le opere di questo pittore che si chiama Andrea Saltini, che appaiono anche nella grafica del mini CD, per cui c'è tutto un discorso di continuità che credo aiuti molto l'espressione musicale della cosa, e credo che sia molto funzionale per far arrivare un messaggio che non è un messaggio diretto, ma un messaggio che si basa su delle suggestioni, ecco. Certo. Senti Rigo, è possibile ascoltare la tua musica, acquistare la tua musica su internet? Cosa bisogna fare? Guarda, il mini CD è su iTunes per la distribuzione digitale, nonché su altri portali che comunque si trovano con molta facilità. Se gli ascoltatori invece sono dei romantici, sono affezionati al supporto fisico, è molto semplice, perché comunque io ho attive due pagine, ad esempio su Facebook, e su quelle ho la possibilità di veicolare un acquisto di una copia fisica, e in più è anche un'occasione per rimanere in contatto e anche per seguire, diciamo, quello che sarà il naturale proseguimento della cosa, perché adesso con quest'anno, con il 2013 che è appena iniziato, realizzeremo un'opera a lunga durata che con ogni probabilità andrò a mixare e a finire di registrare a New York nei primi mesi, penso a febbraio, dopodiché avrà un release probabilmente primaverile, per cui l'invito è a cercarmi nei vari social network e a rimanere in contatto per rimanere informati su questa roba qui. Benissimo, allora Rigo, ti auguriamo buon viaggio, visto che vai in America, ti facciamo tanti auguri, ti ringraziamo per essere stato ospite di Rock Revolution, ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie a voi di Rock Revolution per l'opportunità, e spero di risentirmi nel momento in cui magari uscirà il nuovo CD. Con immenso piacere, a presto allora. Grazie. Grazie, ciao. Antonio Rigo Righetti, questo è solo Rock Revolution, la musica nuova. Come ho fatto non so a stare senza di te. Tutto va bene, tutto è stato facile. Prendo e parto così, ho deciso, per me tutto va bene, domani penserò. Arrivare in tempo dall'altra parte del mondo, sfidare il vento, lasciare tutto qui, un compromesso, un fuoco che mi brucia dentro. Lasciar da parte anche i baci tuoi, non mi curo da un po', prendo e vado da me, un sogno unito mi prende l'anima. Ma lontano da qui e conservo così la sola voglia che spezzo ai vincoli. Orizzonti che non hanno un limite, tramonti, storie ancora da scrivere. Voglio

Revolution Live. Vivi l'emozione di assistere al più bel concerto della tua vita. Era Rock Revolution Live, vivi l'emozione di assistere al più bel concerto della tua vita, due canzoni in sequenza eseguite dal vivo. Abbiamo ascoltato i Dire Straits con Salt and Swing, singolo del gruppo musicale Dire Straits, estratto nel 1978 dal loro omonimo album. Questo fu il singolo di debutto dei Dire Straits ed è anche una fra le canzoni più note del gruppo. Fu subito apprezzata dalla critica e raggiunse rapidamente i vertici delle classifiche. La particolarità per cui piacque maggiormente fu sicuramente la solo finale, insomma, che tutti un po' conosciamo, di Mark Knopfler, contenente una parte molto veloce messa in posizione strategica per compensare l'apparente monotonia dell'intera canzone. Seconda canzone eseguita dal vivo di Rock Revolution Live erano i Kiss con I Wanna Rock and Roll All Night. Loro sono un gruppo rock formatosi a New York nel 73, famosi per la loro appariscenza, per il look, per i particolari trucchi sul viso. Non so se avete presente questa band con il viso bianco con le stelle rosse. Ogni componente ne ha uno proprio e personale. Per quanto incredibile possa sembrare, a dare l'ispirazione iniziale a Kiss furono i Beatles. Pensate un po'. L'idea iniziale dei fondatori Simon & Stanley infatti era quella di creare una band con quattro frontman dove ognuno avrebbe sia scritto che cantato, proprio come i quattro di Liverpool, per l'appunto i Beatles. Adesso ci trasferiamo tutti quanti nel passato, perché arrivano due bellissime canzoni di Chuck Berry. Parliamo di Brown Eyed and Some Men, che è una canzone per appunto di Chuck Berry pubblicata come singolo dalla Chess Records nel lontano 1956. Pensate un po'. La canzone venne originariamente pubblicata come lato B del singolo Too Much Monkey Business. Il titolo del brano è usato per intitolare una biografia di Chuck Berry, tra l'altro, e lo scrittore Glenn C. Questo è difficile, Altusher, spero l'ho pronunciato in modo corretto, afferma che il testo della canzone gioca astutamente con gli stereotipi razziali e le paure connesse al razzismo. Non di meno, la studiosa Martha Biles fa notare che il vantarsi di Berry di essere un brown-eyed handsome man, ovvero un bell'uomo dagli occhi marroni, con evidente gioco di parole sul colore della pelle, appetito dalle femmine bianche, all'epoca oltraggiò moltissimo un sacco di persone, e non abbiamo dubbi a riguardo. Altra canzone che ascolteremo all'interno di I Love Rock and Roll è sempre di Chuck Berry, dal titolo Route 66, tratta da Get Your Kicks On del 1961, meglio nota come Route 66. È un brano musicale composto nel 46 da Bobby Troup ed è inciso per la prima volta da Nat King Cole nello stesso anno, successivamente riarrangiata anche da molti altri artisti, tra quali per l'appunto Chuck Berry nel 61, i Rolling Stones nel 64 e i Depeche Mode nel 1987. La Route 66 di cui tratta la canzone è la US Route 66, ovvero la highway che collega Chicago a Santa Monica, quindi dalla costa a costa occidentale orientale degli Stati Uniti. Quindi arriva il I Love Rock and Roll. Back to the past with the Rock Revolution. Arrested on charges of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Mother told her, darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Just like your daddy, he's a brown-eyed handsome man. Marlo Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. 2-3 the count, with nobody on, he hit a high fly into the stand. Third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way. It's the highway. That's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty. You see, Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip and take that California trip? Get your kicks on Route 66. a Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you can see. A Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino, only you get hip to this kindly tip. E questa era I Love Rock and Roll in diretta Rock Revolution su CRMP Radio. Come ogni buon venerdì sera che si rispetti, fino a mezzanotte vi facciamo conoscere gli artisti emergenti, ma anche gli artisti affermati e anche rock and roll, insomma in tutte le salse. Adesso è arrivato il momento della rubrica. Come sapete, ogni settimana Rock Revolution, da questa nuova stagione, insomma, ha un momento particolare, un po' anomalo, diciamo così, della trasmissione, con due ospiti, ormai fanno parte, insomma, del nostro staff, tra cui uno stagista che è stato promosso a giornalista, è un parolone, e quindi il momento dedicato alle News of the Week. Rock Revolution News of the Week. Oh! Ma già quando inizia la sigla e la base di questo momento mi viene da ridere. Ti diverto. Do il benvenuto a Francis. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Salutiamo anche il nostro amico con il cono gelato nero, Pablo. Pablo, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Perché ridi? Sto cono gelato nero. C'era anche una canzone, gelato al cioccolato dolce un po' salato, no? Sì. Che poi l'ho capita in un secondo momento cos'era. Comunque, allora, come sapete, ogni settimana i nostri amici della redazione vanno a pescare quelle che sono le notizie più interessanti, più curiose dal web, di solito con il bollino rosso, tanto siamo, insomma, la fascia protetta ormai è superata, e quindi volevo chiedervi, cari miei giornalisti, di cosa parliamo questa sera. Dico giornalisti, però dico sempre tra virgolette, ovviamente. Beh, parleremo di tutto un po', ci saranno diverse notizie. Ma io darei subito la linea, passerei subito il microfono a Paolo, che ci illustrerà la prima notizia. Bene. Ah sì, dato l'orario possiamo permetterci qualche notizia un po' cos'è, come al solito, diciamo. Allora, qui si tratta di un uomo che ormai, pur di far sesso, la gente le prova tutte. Quest'uomo cosa ha combinato? Allora, se cercate di fare sesso occasionale, ormai ci sono molti, diciamo, modi per trovare partner su internet. Sì. Ma questo, quello che ha combinato questo signore è alquanto particolare. Che è successo? Allora, quest'uomo che ha fatto? Si è legato, nudo, in un albero bendato. Ah. Sperando che un passante si fermasse a far sesso occasionale con lui. Allucinante, veramente. Cioè, intanto c'è da chiedersi come ha fatto a legarsi da solo all'albero. Poi nudo in mezzo alla strada, pensa che qualcuno si ferma e dice: ah, voglio fare amore con te. Bendato, così non vedeva chi fosse. Certo, giusto. Per la privacy. Si accollava la qualunque. Le cose però non sono andate come avrebbe sognato Alan Peterson. Sperava anche qua, appunto, però è passata la polizia di lì, vedendola l'ha arrestato. E comunque la polizia stessa ha detto che quel parco lì, diciamo, ne capitano sempre di frequentato da scambisti. Usualmente. Ma questa è la cosa più curiosa che è accaduta in quel parco. Ho capito. Immaginate voi, andava un cane, magari a fare i bisognini all'albero, un morso. Dolori. Vabbè, insomma, cose strane. Sono esattamente. Questo è successo dove? In America, immagino, no? Sì, Minnesota. Ramsey. Bene, poi caro Francis, passiamo un'altra notizia dagli States. Oh, parliamo di donne. Le donne più felici sono le attrici a luci rosse. Non avevo dubbi. Una ricerca condotta da 300 di ricerca americani, appunto, ha evidenziato come le donne più felici siano quelle che hanno una carriera da pornostar. Chissà perché. Lo studio condotto dalla Shippersburg University ha evidenziato che le donne con una carriera da star a luci rosse avrebbero una autostima più elevata della media e tenderebbero ad una maggiore positività. Sarebbero anche sessualmente più soddisfatte. E te, ma credo, era scontato. Quindi donne, facciamo un appello: se siete stanche, siete depresse, non siete soddisfatte della vostra vita, datevi al porno e sicuramente troverete pane per i vostri denti, per non dire altro. Gli ormoni in circolo. Poi, caro Paolo, di cos'altro parliamo questa sera? Ma continuiamo a parlare nel mercato della prostituzione. Ecco, sì, effettivamente. Il massimo dell'imbarazzo può accadere. È accaduto a un uomo d'affari che voleva un po' passare una serata particolare, allora fa chiama, l'uomo originario del Zimbabwe aveva telefonato ad un'agenzia che un'agenzia che fornisce ragazze per incontri sessuali per avere una notte di sesso. Sì. Dopo poco è arrivata in una camera una splendida ragazza, una ventenne. È la... la ragazza. La ragazza, sì. L'uomo è quasi svenuto dallo shock, perché la giovane prostituta era sua figlia. Come? Mamma mia, sì. Bruttissimo. La ragazza è riconosciuta dal padre, è scappata piangendo. No, aspetta, io non ho capito, scusa. Dimmi. Il tipo è andato in hotel a prenotare una stanza con una prostituta. Esatto. E ci andò sua figlia. Sì, praticamente sì, è come se è successo. Sì, sì. E cosa è successo poi? La ragazza ha visto che era il padre, è scappata. Che è viene... scappata, sì. Poi, insomma, l'uomo ha raccontato che c'erano problemi in famiglia, che purtroppo le cose andavano un po' male, voleva passare una giornata diversa e purtroppo ha avuto questa sfortuna, male. Un imbarazzo incredibile. È andata male. Non so se ricordate la notizia di quella persona che per la prima volta guardava il film porno e ha trovato la moglie con un altro girava sta cosa. Allora ragazzi, scusate se vi interrompo, però abbiamo in collegamento, sapete, ogni settimana ci sono i nostri ascoltatori che ci seguono, in particolare ce n'è uno molto particolare che è il nostro amico Rambo. Rambo. Pronto, Rambo? Buonasera, pronto. Rambo, buonasera, bentornato a Rock Revolution, come va? Scurao, scurao. Come scurao? Senti, Rambo, senti, ti volevo chiedere una cosa. Ti è mai capitato di contattare delle case di appuntamento, delle case di incontri per incontrare una bella ragazza? No, no, no, per oggi no, ci ho provato. Per oggi? Per oggi, sì, per oggi no. E senti, qual è secondo te il modo migliore per rimorchiare una bella donna? Dacci un consiglio. Ma guarda, perché quando lo film, acchiappale a tutti. Come acchiappale a tutti? Cioè, puntare online, se c'è bene. Qual è il tuo stratagemma, insomma, il tuo punto forte per conquistare una donna? Night. Ma io basta andare al locale, io trovo tutto da lì. L'hanno chiusi. Acchiappala, Senti, già si è saltato quando si parla di ste cose. No, sto scherzando, ogni tanto lo fatto io. Ogni tanto ci sta. Senti, poi riguardo quest'altra notizia di questa persona che abbiamo letto che in America si è legata ad un albero tutta nuda, sperando che qualcuno si fermasse per poter fare sesso con lui. Hai mai pensato? Hai mai pensato a questa possibilità? Io lo ricevo per l'albero. Ti leghi in un albero nudo, magari qualche bella ragazza si ferma e dice: ma quasi. Isola. Senti, so che isola Galati. Senti, noi sappiamo che sei un appassionato di sport, in particolare di calcio. Sei un grandissimo tifoso del Milan, mi hanno detto. Quanto piano mi tasse. Senti, Senti, sappiamo che appunto sei grande tifoso della Juventus. Com'è andata la Juventus ultimamente? L'ultima partita? Cavolo, spaccava tutte le squadre. È forte la Juve quest'anno. Non è venduto per cavolo. Infatti, vabbè. Senti, però io vorrei che vinceremmo la Coppa d'Azione, scudetto, ma a fare un bruoro, certo, no, è giusto. Va bene, Rambo, senti, adesso leggiamo un'altra notizia. Noi nel frattempo ti salutiamo, ti diamo appuntamento alla prossima settimana. Va bene, ma come dice l'oroscopo? Oggi per oggi è buono l'oroscopo. L'oroscopo, guarda, in questo momento non ce l'abbiamo. Prossima settimana, però, okay, tu che segno zodiacale sei? Infatti. Io sono un bravo. Bilancia, perfetto. Allora adesso ci informiamo la prossima settimana, Francis. Ah, la bilancia io consiglio di comprare un Gratta e Vinci da 5 euro. Ecco. Sarete tutti fortunati. Un Gratta e Vinci da 5 euro ti consiglio, non so Francis. Gratta e perdo, no, Gratta e Vinci. Va bene, Rambo, ciao, buonanotte. Ciao. Il nostro Rambo, fedele ascoltatore, insomma, tifosissimo, non si è capito, della Juventus, vabbè. Allora, cari amici, di cos'altro parliamo questa sera all'interno di News of the Week? A chi tocca, Paolo? A me, a te? A me. Allora, chiama la polizia perché vuole un agente donna con cui far sesso. Ah, interessante, cioè invece di una casa appuntamenti chiama giustamente la polizia. La polizia. Beh. Per qualcuno, a volte, quando il desiderio è alle stelle, trovare una donna disponibile diventa un'emergenza, ma chiamare la polizia non è una buona idea. Un uomo della, della Florida è stato arrestato per aver ripetutamente chiamato il 911 chiedendo che una donna poliziotto andasse a casa sua a fare sesso con lui. Ma... immagina. Gli agenti erano stati inizialmente pazienti, decidendo di lasciare correre su quel che sembrava uno scherzo stupido di uno che avrebbe bevuto un po' troppo. Ma alla settima chiamata... Settima chiamata. Sette chiamate in cui il 32enne Joshua Basso chiedeva un agente donna per soddisfare le sue voglie... È andata la polizia? ...sessuali, la polizia ha effettivamente mandato una pattuglia, ma per arrestare Basso. Hai capito? Insomma, veramente lo scemo del giorno. Cioè, immaginate voi di chiamare la polizia per dire questa cosa. Vabbè, vabbè. Pablo! Il microfono, accendilo. Bravissimo, perfetto. È acceso, era acceso. Va bene, parla qua. Allora, adesso non parliamo più di sesso. No, no, scherzavo. Allora, un tedesco ha dovuto cercare scampo in terrazza e chiamare la polizia. Voi direte il motivo? Sfuggire dall'amante troppo focosa che chiedeva di far sesso continuamente. Mm. Allora, mi ricorda qualcuno questa cosa, comunque. Forse la notizia della settimana scorsa. Ma vero. Allora, l'uomo, un 43enne, aveva conosciuto la donna in un bar di Monaco. Resisi conto del feeling che c'era tra di loro, i due sono andati a casa di lei. Mm. Non hanno fatto sesso per più volte. Bene. Per più volte e più volte. Ma quando l'uomo non ce la faceva più, la donna non l'ha presa bene e quindi ha deciso di tenerlo sequestrato fino a che non l'avesse nuovamente soddisfatta sessualmente. Hai capito. L'uomo quindi non ha avuto altra scelta che chiamare la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, la donna ha tentato di convincere anche loro a far sesso con lei. Ma si è invece beccata una denuncia per sequestro di persone e per tentata violenza sessuale. Lucia, ma non è finita qui! No, no, perché infatti, alcune settimane dopo, non contenta, la ragazza ha ripentato di nuovo la stessa routine. Come? Ha conosciuto un ragazzo in autobus, quindi si sono scambiati delle occhiate. Sensuale, e quindi sono andati a casa di lei nuovamente. Questa volta il ragazzo è stato lì 36 ore. Mamma mia. Dopodiché, esausto, tenta di andarsene. Ma la ragazza furba, onde evitare l'errore della prima volta, ha sequestrato il telefono. Ha sequestrato il telefono del ragazzo e anche il ragazzo stesso. Che alla fine è stato trovato fuori per strada in stato di shock seminudo. Allucinante. Sì, questa volta la ragazza è stata chiusa in clinica psichiatrica. In una clinica psichiatrica per cercare di recuperare. Certo, certo. Bah, insomma, dovesse capitare a te in una situazione del genere, cosa faresti? Ma mi farei sequestrare volentieri. Non avevamo dubbi. Quindi, per chi volesse violentare Paolo, il numero di telefono è 34. No, lasciamo stare, lasciamo stare. Poi, caro Francis, concludiamo con quest'altra notizia che riguarda... Ma per forza dobbiamo dare quest'altra notizia. Ma non lo so, fai tu, se vuoi, se hai voglia. Ma un po', ma butta. Vabbè, allora non lo so, ci salutiamo? Sì, salutiamo. Salutiamoci, va bene. Buonasera a tutti. Ciao Francis, ciao Pablo. Ciao ragazzi. Appuntamento alla prossima settimana con Rock Revolution News of the Week. Adesso ci trasferiamo tutti quanti al cinema per godere di Rock Revolution Soundtrack. Rock Revolution Soundtrack. Dal cinema alla radio, le più belle colonne sonore rock di tutti i tempi. Mettiti comodo e goditi lo spettacolo. Puttana. Beh, si muore tutti prima o poi. Sono l'uomo che salverà il mondo. Quindi, andiamo. Abbiamo più o meno 10 minuti, giusto? Inserisci questo nell'alloggiamento. Alzi, premi, tieni giù. Tutto qui. Alzo, premo e tengo giù, non è difficile. Anche se sono un casinista. Lo accompagno io. Thank you. stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, cinema alla radio, le più belle colonne sonore rock di tutti i tempi. Mettiti comodo e goditi lo spettacolo. Il tempo è scaduto. Thank you. ground and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Era Rock Revolution Soundtrack, le più belle colonne sonore rock. Abbiamo ascoltato dal film Armageddon la colonna sonora curata dagli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing, che è un brano degli Aerosmith pubblicato originariamente nel 1997 come traccia bonus nell'album Nine Lives, e poi Independence Day con la colonna sonora di Bene King con Stand By Me. Adesso arrivano gli Yes con Honor of a Lonely Heart, ultimo brano di questa sera, poi ci saluteremo. questa ennesima puntata di Rock Revolution, gli Yes con Honor of a Lonely Heart. Ovviamente rinnoviamo l'appuntamento per la prossima settimana, sempre venerdì dalle 21 a mezzanotte con Rock Revolution, il programma di CRMP Radio. Per conoscere nuove realtà musicali, gli artisti emergenti, il rock, ma anche gli artisti importanti, insomma anche loro sono ospiti di Rock Revolution, un motivo in più per esserci. Ringrazio tutti quanti gli amici di Rock Revolution, ascoltatori, ringrazio Simone Brancato, Ida Parlavecchio, il nostro Pablo, il nostro Francis, Francesco Quartararo, insomma tutti quanti, ma ovviamente voi ascoltatori che ci avete seguito fino a quest'ora tarda della notte, del venerdì sera. Poi potrete ascoltare ovviamente la replica del programma domenica dalle 21 a mezzanotte. Poi c'è Rock Revolution Love Edition, l'appuntamento per gli amanti del rock d'amore, con le più belle canzoni rock d'amore. Appuntamento al prossimo venerdì, da Filippo Brancato è tutto. Bye bye, buona settimana. Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM di Radio. Sugar.